Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. Coronavirus, allarme dell'OMS per i contagi all'estero a persone che non hanno viaggiato in Cina. Oltre 40.000 i contagi, vittime a quota 910, superata la SARS. Brusco calo della produzione industriale a dicembre in Italia, nell'ultimo anno è diminuita del 4,3% per il settore, si tratta di recessione. Tempesta sul nord Europa, in Francia 130.000 abitazioni senza luce, venti forti anche in Italia, su Toscana ed Emilia-Romagna. Trionfo per il sudcoreano Parasite alla notte degli Oscar, per la prima volta è straniero il miglior film, premi anche Phoenix e Zellweger. Buongiorno da Alessio Maurizi e ben ritrovati al punto delle notizie su Radio 24 a metà giornata. I titoli principali nei prossimi 15 minuti e poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con le notizie sul coronavirus. Sono oltre 40.000 i contagi, sale a 910 il numero delle vittime, è stato così superato il livello raggiunto dalla SARS nel 2002-2003. E oggi però il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, ha parlato di alcuni casi preoccupanti sulla diffusione del virus da parte di persone che non avevano fatto viaggi in Cina e che potrebbe dunque prefigurare un salto di qualità verso una pandemia, cioè una epidemia di carattere mondiale. Ne parleremo più avanti anche con il direttore della Croce Rossa Internazionale, ma adesso facciamo il punto sulla situazione in Italia con Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Innanzitutto c'è il governo che si muove per fronteggiare i possibili contraccolpi sull'economia derivanti dalla diffusione del virus. In corso da circa 2 ore a Palazzo Chigi, ma dovrebbe concludersi a minuti, il tavolo interministeriale presieduto dal Premier Conte con i ministri della salute, degli esteri e dell'economia, oltre che con il commissario Angelo Borrelli. Allo studio, oltre al punto sulle misure sanitarie adottate e da adottare, c'è la creazione di una task force di tecnici che valuti gli effetti dell'emergenza sull'economia e propongono una serie di interventi a sostegno delle imprese nei diversi settori, dall'industria al turismo. Quanto allo stop dei voli, il ministro della Salute Speranza ha già chiarito che, salvo ripensamenti, non viene rimosso perché le relazioni diplomatiche sono rilevanti, le questioni economiche fondamentali, ma il diritto alla salute è più importante. Ma il governo cinese, attraverso il portavoce del ministro degli esteri, chiede che l'Italia non adotti misure eccessive, che valuti la situazione in modo obiettivo e razionale. Intanto, buone notizie dall'ospedale Spallanzani di Roma: negativo il primo test sui 2 bambini arrivati dalla Cecchignola, le loro condizioni di salute sono buone. Per ora restano 3 contagiati in Cina, ma ricoverati allo Spallanzani, la coppia dei 2 anziani coniugi cinesi, le cui condizioni sono stazionarie, e il giovane ricercatore emiliano, che aveva iniziato la quarantena alla Cecchignola, positivo al test ma in buona salute. Al Policlinico Militare del Celio poi si trovano sempre in quarantena gli 8 italiani rientrati nelle ultime ore dalla Cina, e a loro nelle prossime ore potrebbe aggiungersi anche il 17enne Nicolò, che nonostante non sia infetto è rimasto bloccato a Wuhan a causa di una febbre, che rientrerà con un volo militare. Da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, e come detto più avanti con il dottor Emanuele Capobianco della Croce Rossa Internazionale affronteremo diversi aspetti, dal blocco dei voli, l'Italia è l'unico paese in Europa ad averli bloccati verso la Cina, poi la questione della stabilizzazione dei contagi, se si sta stabilizzando effettivamente l'epidemia in Cina, e poi anche la questione delle superfici da contagio sul quali resterebbe per alcuni giorni il virus, ed è uno degli ultimi allarmi che ci sono soprattutto sui social. Ma non bisogna fare allarmismi, perché in questo caso, lo anticipiamo subito, il virus che rimane sulle superfici non è in grado di contagiare effettivamente le persone, ma ripeto, questo lo chiariremo e ne parleremo più diffusamente più avanti. Adesso invece parliamo di politica. Siamo naturalmente in Italia, rinviato a domani il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto mettere un sigillo sull'accordo sulla prescrizione dopo, ricorderete, l'entrata in vigore della riforma Bonafede e lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Si studia adesso un modo per garantire la giusta durata dei processi. Bene, si fa strada l'ipotesi di un emendamento. Sulla prescrizione i Dem sono ottimisti, ma Italia Viva non molla, lo scrive Matteo Renzi su Facebook. La legge è stata approvata dal loro Matteo, spiega riferendosi a Matteo Salvini. Noi su questa vicenda non molliamo e nei giorni prossimi lo dimostreremo. Il gioco di forza continua, non mi fermo, non diventerò grillino, anche se Renzi assicura di non voler far cadere il governo. Italia Viva non vuole che il lodo Conte bis, ovvero lo stop alla prescrizione se condannati in primo grado, non se si è assolti, venga inserito come emendamento al mille proroghe, entrando così in vigore agli inizi di marzo. Italia Viva contesta che la riforma del processo penale possa avvenire con un emendamento, attesa quindi per il Consiglio dei Ministri, ma i Dem avvertono se Renzi. E c'era un problema con la fine del pezzo di Elisabetta Fiorito. Cambiamo argomento, parliamo dei dati economici di oggi, perché c'è da segnalare purtroppo un nuovo brusco calo per la produzione industriale italiana. A dicembre è scesa dell'1,3% e nell'ultimo anno il calo è stato addirittura del 4,3%, il dato peggiore da 5 anni a questa parte. Dopo 5 anni di recupero, nel 2019 la produzione industriale italiana torna a scendere e segna meno 1,3%, prima diminuzione dal 2014, la più ampia dal 2013, e quanto certifica l'Istat, registrando per il mese di dicembre il calo mensile più forte da gennaio 2018, male in particolare gli ultimi 3 mesi dell'anno, con una flessione superiore all'1%, la più marcata dal quarto trimestre 2012 e che si aggiunge al segno meno del secondo e terzo trimestre. A livello di settori, in caduta libera l'auto, così Giancarlo Bruno dell'Istituto di Statistica. Tra i settori che perdono di più quest'anno sicuramente ci sono i beni intermedi e i beni strumentali, tengono invece i beni di consumo che mostrano un lieve aumento e l'energia. I dati negativi provenienti dall'Italia arrivano dopo i numeri poco incoraggianti di Francia e Germania. La produzione tedesca a dicembre è crollata del 3,5% mensile, del 6,8% annuo, quella francese di circa il 3%. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Questione migranti adesso. Dopo il rinnovo automatico dell'accordo con la Libia del 2017, l'Italia ha inviato ieri alle autorità libiche la proposta italiana che aggiorna questo memorandum. In cambio degli aiuti alla Guardia Costiera Libica, il nostro paese avanza alcune richieste. L'Italia chiede alla Libia più tutele per migranti e rifugiati. Lo fa in una clausola inviata ieri a Tripoli, che va ad aggiungersi al memorandum rinnovato automaticamente il 3 di febbraio. Ma sono raccomandazioni che rischiano di restare belle intenzioni. Infatti, non c'è nessuna garanzia che l'accordo sarà rispettato da parte di Tripoli, dove tra l'altro la situazione è molto instabile e gli interlocutori non sono certi. Intanto l'Italia manderà comunque motovedette, jeep e altre apparecchiature per un valore di 800 milioni. Il ministro dell'Interno Luciano Lamorgese, ospite del programma Che Tempo Che Fa, a 5 mesi dall'avvio del governo annuncia modifica ai decreti sicurezza, ma non dice quando e non rinnega il codice di condotta per le ONG. Io penso che i decreti sicurezza vadano cambiati, perché ci sono state delle osservazioni da parte della Presidenza della Repubblica, ma ci sono anche altri aspetti che possono in effetti servire. Intanto mercoledì al Senato si decide se Matteo Salvini debba essere processato o no per aver ritardato lo sbarco della nave Gregoretti nel luglio 2019. La giunta per le elezioni ha già detto di sì, con voto favorevole a sorpresa anche della Lega, ma il partito pare orientato questa volta a votare no. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. All'estero ora, in Germania, cambio ai vertici del partito della cancelliera Angela Merkel. L'erede annunciata Annegret Kramp-Karrenbauer ha infatti deciso di lasciare la presidenza della CDU e di non candidarsi come cancelliera per le elezioni del 2021, lo riferiscono fonti del partito. E siamo all'ondata di maltempo che si sta abbattendo sul nord Europa, Francia, Germania, Olanda e Gran Bretagna. Sta sferzando con venti fortissimi Francia, Germania, Olanda e soprattutto Gran Bretagna la tempesta Ciara che si sta battendo sul nord Europa fino a spingere alla chiusura la Tour Eiffel a Parigi, stanotte colpita da raffiche di vento a 152 km orari. Sulla costa atlantica 130.000 nuclei familiari rimasti senza corrente elettrica e disagi anche in strada. In Germania le autorità hanno sospeso la circolazione dei treni a lunga percorrenza in diversi stati occidentali. Stop a 190 voli a Francoforte e 420 a Monaco. 3 feriti per alberi sradicati. Allerta meteo ai massimi, soprattutto nel Regno Unito, a cominciare dall'Inghilterra e dal Galles, e a seguire in Scozia, con piogge battenti e venti forti fino a punti intorno ai 160 km all'ora, tanto che hanno aiutato a battere per ben 3 volte il record di velocità di voli commerciali tra New York e Londra, che hanno coperto la tratta in meno di 5 ore invece delle 6 ore circa stimate. Ma in Italia Ciara porterà solo vento forte, ma di minore intensità, secondo il meteorologo Paolo Corazzon. Nelle prossime ore e domani anche fino a 100 km orari. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si celebra oggi la giornata del ricordo in memoria di tutte le vittime delle foibe. Le foibe furono una sciagura nazionale sottovalutata, ma oggi bisogna stare attenti, oltre al negazionismo, all'indifferenza. Sergio Mattarella parla della tragedia che si consumò nel dopoguerra al confine tra Italia e Jugoslavia nella giornata del ricordo istituita nel 2004. Proprio in memoria delle vittime delle foibe, una sciagura nazionale alla quale i contemporanei non attribuirono, per superficialità o per calcolo, dice il presidente, il dovuto rilievo. Un imperativo morale ed un insegnamento fondamentale da trasmettere alle nuove generazioni, per il presidente del Senato Casellati, quello di ricordare le decine di migliaia di vittime, l'esodo e la tragedia di tanti italiani cacciati dalle proprie terre. Manifestazione in Parlamento dunque oggi, e manifestazioni in diverse città, su tutte quella alla Foiba di Basovizza sul Carso Triestino. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al cinema. Il trionfo del sudcoreano Parasite alla notte degli Oscar, come saprete naturalmente, ne abbiamo parlato molto anche durante la giornata su Radio 24, per la prima volta è straniero, non in lingua inglese, il miglior film. Premia anche come migliori attori a Joaquin Phoenix e René Zellweger, ne parleremo tra poco nella seconda parte di Effetto Giorno. Siamo invece allo sport. Carlo Genta, buongiorno, ben ritrovato. Ciao, Carlo, buongiorno. Naturalmente insomma, è successo quello che tutti i tifosi, ad eccezione degli juventini, aspettavano, ebbene, ieri sera è accaduto. Sì, è accaduto che l'Inter ha vinto il derby dopo che la Lazio aveva vinto a Parma, anche qui tra mille polemiche, ma d'altra parte come le polemiche e i dossier arbitrali sono come il raffreddore, male di stagione, no? Come l'influenza, naturalmente quella normale. Però al di là di questo, tutti i tifosi di calcio, ovviamente salvo quelli di parte, certo, volevano questo, vogliono un campionato equilibrato, vogliono tre squadre così vicine, cosa che non si vedeva. Tanto, tre squadre davvero non accadeva da quanto tempo? Mi sembra 2001-2002, quindi... I tempi della SARS, no, adesso ho fatto esatto, un brutto più parallelismo. Più o meno. Comunque, da quegli anni lì, sì. E invece adesso sono tutte e tre le vicine, e soprattutto dietro il prossimo angolo c'è Lazio-Inter, quindi sfida pazzesca. E potrebbe beneficiarne ovviamente di nuovo. Potrebbe beneficiare nella Juventus, anche se la Juventus non si sa se riuscirà a beneficiarne, dato che ha un sacco di problemi. Dopo la sconfitta col Verona, Sarri in difficoltà. Anche di questo parleremo poi, e quindi insomma è tutto davvero tutto molto, come direbbe Pardo, liquido. C'è una chiamata particolare per gli ascoltatori su WhatsApp o no? No, sai, oggi giorno dei credo degli interisti, no? Quindi ha vissuto interisti. Un primo tempo da incubo con sì, Milan nettamente al miglior primo tempo stagionale, poi è calato Ibra, è calato tutto il Milan. E sinceramente, quando prendi 4 gol, questo possiamo chiedere ai milanisti, soltanto in un tempo, anche se dall'altra parte hai l'Inter furibonda, beh, insomma, qualche domanda te la devi fare. Quindi, milanisti e anche soprattutto forse interisti, fatevi avanti 3-4-9-2-3-8-6-6-6-6 per l'appuntamento con tutti i convocati, con Carlo Genta. Grazie Carlo. Ciao Alessio. Noi facciamo una piccola pausa per quanto riguarda Effetto Giorno, torneremo tra poco e, come anticipato, saremo con Emanuele Capobianco della Croce Rossa Internazionale. A che punto è l'epidemia di virus, di coronavirus, in Cina e nel mondo? Tra poco. Per il pranzo accontentiamo tutti. Prova un grande classico come le lattine Cesir Cat 70 grammi a 89 centesimi l'una. Qualcosa da intenditori come le lattine gourmet Diamant 85 grammi in promo 3x2. E qualcosa da sgranocchiare come le crocchette Friskies Cat 2 kg a 3,50 euro. Ma affrettati, le promozioni scadono il 16 febbraio. Ah, grazie. Allora... No, scusi, parlavo con Lea. Ogni giorno mille promozioni da Arcaplanet. Pet Store, Pet Stories. Effetto giorno. Buongiorno, ecco i titoli di oggi. Coronavirus, oltre 40.000 contagi, sale a 910 il numero delle vittime. Ci sarebbero casi di contagio da persone che non hanno viaggiato in Cina, dice l'OMS. Effetto giorno, Emanuele Capobianco, direttore salute della Croce Rossa Internazionale. Tra poco. Brusco calo della produzione industriale nell'ultimo anno in Italia, è scesa del 4,3% e per il settore si tratta di recessione. Tempesta sul nord Europa, in Francia 130.000 abitazioni sono senza luce, venti forti anche in Italia, su Toscana ed Emilia Romagna. Al cinema trionfo per il sudcoreano Parasite alla notte degli Oscar, per la prima volta è straniero il miglior film, premiati anche Phoenix e Zellweger. 13:17, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. Allora, avete appena ascoltato i titoli di oggi e con noi, come anticipato, Emanuele Capobianco, direttore salute della Federazione Internazionale della Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, le ultime notizie e dichiarazioni ufficiali anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, insomma, potevano essere considerate anche, come dire, rassicuranti, perché si sta dichiarato il responsabile del programma di emergenza sanitaria, Michael Rain, stiamo registrando un periodo di stabilità da 4 giorni, il numero dei casi segnalati non è aumentato. È una buona notizia perché potrebbe riflettere l'impatto delle misure di controllo che sono state messe in atto. Capobianco, è presto per dire che l'epidemia di coronavirus ha raggiunto il suo picco? Io credo che sia presto. Quello che noi sappiamo è che l'epidemia è cominciata probabilmente a dicembre in Cina, i primi casi sono stati registrati a gennaio e ad oggi abbiamo più di 40.000 casi registrati con 900 e più morti. Il 99% di questi casi, di queste morti, sono in Cina. I numeri stanno ancora aumentando e stanno anche molto lentamente aumentando all'estero. Quello che è importante è che le misure di contenimento che sono state messe in atto vengano continuate per evitare una progressione ulteriore della malattia. Senta, a proposito dei casi all'estero, le faccio sentire anche quello che ha detto questa mattina ai microfoni di 24 Mattino su Radio 24 Edoardo Missoni, che insegna salute globale alla Bicocca e alla Bocconi, a proposito della situazione dei contagi nel mondo, ma in particolare in Africa, che è il continente che preoccupa di più, perché ci sono sicuramente c'è una rete sanitaria meno efficace, ci sono meno controlli, non si hanno al momento dati sicuri neanche di contagi, per cui si teme che possa covare sotto la cenere qualche cosa di più. Sentiamo Missoni. È difficile dire se la Cina comunica o non comunica. Io credo che in questo momento abbiano tutti l'interesse a comunicare e a non sottostimare l'epidemia. Però rimane il tema che non sappiamo esattamente. Quindi questo è il punto. D'altra parte sono numeri appunto verificati, ma in molti paesi ancora non possiamo nemmeno verificare, sto pensando a tutto il continente africano. Il timore non è tanto quello che avviene in Cina, perché in Cina stanno mettendo in atto tutte le misure opportune, anche in maniera piuttosto drastica. Quindi il concetto che anche stava accennando lei della Cina, sappiamo, i dati ci sono, il contagio è quello che è, non possiamo dire che l'epidemia ha raggiunto il suo picco, però, come dire, è la situazione sotto controllo. Nel mondo invece, a partire dalla questione Africa, che è un punto interrogativo, e anche per l'ultima dichiarazione dell'OMS che parla del casi di contagio da persone che non erano state in Cina, questo fa pensare che ci possa essere una pandemia, cioè una epidemia globale, un rischio aumentato nelle ultime ore, secondo lei, di pandemia? Pronto? Capobianco? Non so, non abbiamo più il collegamento con il direttore della Croce Rossa Internazionale. No, evidentemente è caduta la linea, vediamo se riusciamo a recuperarla, perché appunto l'ultimo allarme, se così vogliamo chiamarlo, senza creare allarmismo, da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è proprio questo, cioè ci sarebbero dei casi all'estero, quindi al di fuori della Cina, di contagio da coronavirus da parte di persone che non erano state in Cina, e questo potrebbe far pensare alla punta di un iceberg, perché quindi sotto potrebbe esserci un effetto contagio e quindi una pandemia mondiale molto più ampia. Abbiamo recuperato Capobianco, buongiorno di nuovo. Ha sentito la domanda per quanto riguarda, diciamo, il rischio pandemia, è aumentato questo rischio nelle ultime ore a livello globale? Allora, il rischio non muta in poche ore, il rischio è un rischio che rimane alto ed è alto da parecchi giorni, ed è un rischio che deve essere continuamente monitorato. Uno dei segnali dell'OMS è, come menzionavate poco voi, che questo potrebbe essere la punta dell'iceberg, che ci potrebbero essere casi che magari sono poco sintomatici, con sintomi molto lievi, che non vengono identificati. E questo è la paura, che ci siano dei casi appunto non identificati, che non vengano isolati, che possano trasmettere la malattia non solo in Cina ma anche in altri paesi. Se questo si verificasse su una scala globale, entreremmo davvero in una pandemia. Il rischio è alto, al momento l'atteggiamento di controllo dell'epidemia è l'atteggiamento giusto delle autorità di sanità pubbliche, e vedremo nei prossimi giorni se questo intervento andrà a buon fine oppure no. Al momento non lo sappiamo ancora. Senta, voi della Croce Rossa lavorate naturalmente con le massime autorità internazionali, voi stessa lo siete, compresa l'OMS, lei ha un quadro sicuramente ampio a livello internazionale. C'è stata un po' di polemica in Italia per la questione del blocco dei voli, blocco totale. L'Italia è l'unico paese in Europa a fare un blocco totale dei voli da e per la Cina. Secondo lei è stata una misura, una precauzione eccessiva? Allora, io posso dirle che l'OMS, quando ha dichiarato l'emergenza di coronavirus un'emergenza di sanità pubblica internazionale, ha fornito delle raccomandazioni non vincolanti ai paesi, nelle quali l'indicazione era di mantenere le barriere aperte e di non avere restrizioni ai voli. Detto ciò, però, i governi hanno preso delle decisioni autonome, e noi sappiamo che in circa 60 paesi hanno posto delle restrizioni di viaggio, incluso dei blocchi dei voli. Ci sono più di o meno 35 compagnie aeree che hanno bloccato o ridotto i voli dalla Cina. Non è chiaro se questo serva o meno, ma questo è quello che è stato fatto da molti paesi, non solo dall'Italia. Senta, un'ultima cosa, Capobianco, la Cina riapre oggi le scuole, se abbiamo capito bene, staremo a vedere, sarà notizia da monitorare nelle prossime ore. C'è, come dire, questo potrebbe corrispondere a un aumento del rischio di casi di contagio? Allora, un importante punto di questa epidemia è che, per quanto ne sappiamo noi adesso, il virus si passa solo da persone che sono malate a persone che sono sane. Quindi la precauzione fondamentale è identificare le persone che sono malate e isolarle. Quindi c'è la possibilità di trovare chi ha la febbre, chi ha la tosse, e portarlo al di fuori di una scuola. Se queste misure sono messe in atto, se le persone tossiscono mettendosi davanti il gomito e non la mano, certo, e le mani vengono lavate, questa è la cosa più importante, c'è la possibilità di evitare il contagio. E queste misure di precauzione sono misure di precauzione standard per qualsiasi virus, che si devono adottare anche per il coronavirus. E questo, se c'è un messaggio da passare a chi si sta ascoltando, è questo: lavatevi le mani, fate in modo che i vostri bambini si lavino le mani sempre, perché questa è la barriera più importante per prevenire i virus influenzali e, se mai dovesse arrivare il coronavirus, anche il coronavirus. Grazie Emanuele Capobianco della Croce Rossa Internazionale, grazie. Grazie a voi. Questo dunque era il punto sulla situazione del coronavirus in Cina e nel mondo. Adesso cambiamo pagina, decisamente parliamo di cinema. Mi ha fatto piacere rivedere i tuoi, stanno bene? Già, ma disoccupati. Ti cedo il mio posto per fare il suo insegnante di inglese. Ma non ho un diploma. Inventane uno. Assisto sempre alla prima lezione. Is it okay with you? Io credo che mio figlio sia un artista nato. È uno scimpanzé, vero? È un autoritratto. Pazzesco. And the Oscar goes to Parasite. Eccoci qua con la nostra Marta Cagnola che ha seguito la notte degli Oscar. Ciao Marta, fresca di Sanremo, ben ritrovata. Eccoci. Beh, fresca non è esattamente l'aggettivo adatto, ma... ma io sai, ti voglio bene, quindi fare. Ti immagino sempre molto fresca. Marta esatto, Cagnola, allora dunque... Beh, storico, eh? Ecco, storico. Perché storico? Che cosa è successo? Cosa ha fatto l'Academy che non era mai accaduto? Allora, 92 anni di Oscar e per la prima volta un film straniero diventa miglior film. Allora, Parasite di Bong Joon-ho ha vinto 4 statuette, lui miglior regista, insomma, ha vinto il miglior film straniero, ma soprattutto ha vinto la palma del miglior film in assoluto. E questa cosa non era mai successa agli Oscar, è sempre stato un film americano a vincere il miglior film. Quindi non assoluto. Era una regola, diciamo, aurea che non poteva essere infranta, perché questa volta no, è successo. Ecco, era un'abitudine, consuetudine, diciamo così. Sì, è successo che film non americani venissero premiati in categorie che non fossero solo il miglior film straniero, che da quest'anno si chiama miglior film internazionale, ma è la prima volta che un film non americano è il film migliore, ecco, in assoluto, ma secondo l'Academy. Qual è il segreto di questo Parasite? Che cos'è che ha smosso, che ha convinto così tanto l'Academy da fare questo salto storico, secondo te? Allora, è un film originalissimo, è un film totalmente inatteso. Io penso che l'industria del cinema coreana stia facendo dei capolavori, dei piccoli film gioiello, ma anche un grande cinema popolare e totalmente inatteso. Basti pensare che questo film passa dalla commedia al dark e poi, diciamo, una curiosità per chi non l'avesse visto, l'ultima scena è quella con In ginocchio da te di Gianni Morandi. Quindi ragazzi, se non l'avete visto, andate a vederlo perché è ancora in programmazione e benissimo. La scorsa settimana era ottavo in classifica, immagino che questa settimana... No, dico, io non posso commentare perché non l'ho visto, quindi l'ultima e scena allora non tocca. Posso dire, allora però naturalmente e allora sicuramente ci andremo, certo. Marta, premiati anche Joaquin Phoenix e René Zellweger, apprezzatissimi attori per la loro tecnica, ma anche credo per il discorso che hanno tenuto e che come sempre ha aperto, diciamo così, degli orizzonti anche extra cinematografici, no? Sì, allora ricordiamoci che gli Oscar sono rimasti senza conduttore, sono uno spettacolo ormai non proprio originalissimo di sole premiazioni con gli artisti, gli ex premiati che introducono la busta, quindi gli intermezzi sono solo musicali e molto veloce, pensate a Sanremo è col contrario. Allora, i due attori protagonisti, gran parte degli interventi sono attesi perché spesso c'è un messaggio politico dietro. Sì. Allora, i due attori protagonisti hanno fatto due discorsi molto diversi. Quello di Renée Zellweger si è concentrato soprattutto sulla figura di Judy Garland, Miss Garland la chiama lei, che è la protagonista reale del suo film, che non ha mai visto l'Oscar, e lei l'ha definita come un esempio di inclusività, un messaggio che arriva ancora oggi. Quello di Joaquin Phoenix, estremamente emozionato, a tratti un po' disorientante, è stato un messaggio teso a ricordarci che chi fa cinema ha anche più voce per gli altri per dare dei messaggi, quindi ha parlato di diritti per le minoranze, diritti LGBT, a un certo punto ha parlato anche delle mucche, insomma è stato un discorso ovviamente nell'emozione del momento, ma con un messaggio molto chiaro. Soprattutto ha detto: io ero un farabutto, grazie per chi mi ha dato una seconda possibilità. E poi ha citato il fratello River Phoenix, che per noi resta un ricordo indelebile. Certo, infatti anche a questo naturalmente mi riferivo, Marta. Sono le 13:30, abbiamo la borsa che incombe, quindi pochi secondi, però ci sono stati anche degli altri premi, così a volo d'angelo ci vuoi ricordare alcuni di questi? Sì, ricordiamo che ci sono stati due attori non protagonisti che finalmente prendono un Oscar, che sono Laura Dern e Brad Pitt, e invece diciamo che è rimasto a bocca asciutta Martin Scorsese. 10 candidature, neanche un Oscar, però gli ha fatto un grande omaggio Bong Joon-ho perché ha detto: io ho preso l'Oscar anche perché ho guardato per tutti gli anni della mia formazione i film di Martin Scorsese. Stupendo. Grazie Marta Cagnola. 13 e 31 minuti, ci fermiamo qua, facciamo una pausa, torniamo tra poco. 349-238-6666 per i vostri messaggi che potete scrivere anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Tra poco. Effetto Giorno. Coronavirus, oltre 40.000 contagi, vittime a quota 910, ci sarebbero casi di contagio da persone che non hanno viaggiato in Cina. Brusco calo della produzione industriale, nell'ultimo anno è scesa del 4,3%. Lascia l'erede di Angela Merkel in Germania, Annegret Kramp-Karrenbauer abbandona la CDU e non si candiderà. Maltempo sul nord Europa, in Francia 130.000 persone senza luce, venti forti anche in Italia su Toscana ed Emilia-Romagna. Il punto di Alberto Orioli. Qualche giorno fa il dato del rallentamento della locomotiva tedesca e quello del calo della velocità di crescita della Francia, ma oggi tocca a noi. L'Italia assegna a dicembre uno stop della produzione industriale che in ragione d'anno significa un calo del 4,3%. Del resto, in aree storicamente fiore all'occhiello della nostra manifattura, da tempo si sente il rallentamento: la Brianza, Bergamo, Brescia, Vicenza, alcune enclave dell'Emilia. E ciò che è peggio, si tratta di dati che non tengono ancora conto dell'ulteriore gelata rappresentata dagli impatti del coronavirus. Il vero antidoto in fasi come questa sarebbe un veloce programma di investimenti pubblici, che peraltro sulla carta sarebbero anche finanziati. La palla dunque al governo, che però sembra in tutt'altre faccende affaccendato, come ad esempio la prescrizione, il taglio del parlamentare, la legge elettorale. L'Europa ci dovrebbe aiutare nella gestione più semplice che in passato degli investimenti in progetti ecosostenibili, sempre che riusciamo a trovare strade celeri per spenderli però quei soldi. Ad esempio il piano dei fondi per la manutenzione del territorio, intorno a 14 miliardi, che si concluderà nel 2021, è ancora al palo, conteso tra diverse amministrazioni, tra ricorsi e accavallamenti di responsabilità, o peggio bloccato dai veti, che è poi una delle specialità dell'amministrazione italiana.